sono arrivati anche i capidugli. Uno dice ma l'ha portato la nave, ma lascia perdere, che la nave se prende il capidoglio nel frane dopo la Asina se lo porta presso, oppure prende chissà dove va a finire. Per arrivare un capidoglio a Platamona ce ne vuole. Sai che io a Platamona, al presidio militare, 20-25 anni fa, c'era lo squalo in riva girando, sarà stata una verdesca, non lo so, non era delfino, girava intorno, tu aveva preso l'orientamento a 20 metri dalla riva. Beh, soprattutto con questi periodi qua di acque calde, di cosa voglia che la perdono l'orientamento. Questo che c'è adesso, dice ma c'è caldo, è bello, è tempo cattivo, dice è tempo buono, c'è caldo, no, è tempo cattivo, perché si sta modificando tutto l'habitat, sia terrestre che marino. Si stanno prendendo, per esempio, non ci sono più polpi, adesso prima qualcosa, adesso a marzo si prendeva dalle parti di Ponente, di polpi, andare verso Fiume Santo, a largo, lo prendevi qualche polpo, un po' più a fondo, adesso non ci sono più polpi, non riesci a prendere più polpi, quindi qualcosa sta succedendo, eppure ci sono, perché lo sai cos'è Robè, che tu vai a tirar di su, magari si agganciano a una polpara, vai a tirar di su, come sentono la differenza allo smalto termico tra per esempio 22 metri, 30 metri di acqua, ma a tirar di su, come sentono il proprio smalto termico, li prende e si tacca. Capito? Proprio con la temperatura che fa andando in superficie e salendo di molti gradi, mentre prima questa cosa a febbraio, a marzo, diciamo che c'era molto, la temperatura era molto più fredda, io mi ricordo, e poi voi lo potete confermare, che febbraio-marzo c'era tempo cattivo. Oggi per esempio c'era vento, ma c'erano 15 gradi, c'erano 16 gradi, non è una cosa normale. Cappa, vai Gianni. Sì, è così, capì. Prima si pescava molto di più, io mi ricordo che andavo al passetto lì, avevo scoperto una tara di ombrine, ne prendevo una dopo l'altra, e tutti i pezzi da un chilomiglio, e ne avevo visto anche Claudio, sono venuti giù perché ero al baracchino, e ne sto prendendo un bel, ma che non vi grido, sono scesi lui, Claudio, e sono scesi al CB a vedere, perché la buona anima di Silvestro, io quando sento un chilomeno dei chili, vai, non vi grido, alla fine sono venuti e mi hanno visto coppando nulla da un chilo e mezzo, roba del genere, e ne avrò preso 4 o 5 di ombrine al giorno. Beh, se trovi il passaggio le prendi, è come le orate. L'orata non è che c'è una tara, l'orata è a passaggio, l'orata se capiti nel punto buono, al momento giusto fai danni. A Porto Torres c'è stato un signore con un gozzo che ha preso con le reti, ha preso orate, che ha dovuto chiamare un'altra barca. Per caricare il pesce, perché stava per andare a fondo, ha preso del tramaglio, delle bugie, io ti parlo negli anni 70-80, stava per andare a fondo, mi segui? Sì, invece c'era il passaggio, magari ha beccato il passaggio giusto. Una volta lì al passetto è successo che sono arrivato, c'avevo gli americani, ho preso due canne e io rimettevo il cucchiaino praticamente col manico piegato per fare il segnalino, le mettevo in terra le canne e questo ragazzo mi ha detto, ascolta, no dai un verme che voglio provare, perché sono tutta la sera quel granchio, ti rompo il re, vabbè dammi un granchio, io ti do un verme, abbiamo fatto scambio. Cazzo, l'ha un po' con un granchio, ma tutta la sera lui ha detto non avevo preso nulla, ha giubilato un'orata da 1,2 kg. Ho detto adesso questa qui a chi la devo dare? Ho detto vabbè dai, te la lascio a te, gli ho detto no, se tutta la sera che te, no, non ha voluto, non è lo volevo dare, non è voluto, ho detto no, non è giusto, hai avuto più fortuna di me, ma non è giusto che tu me la debba dare a me, ne puoi scattarti. Ciao Gianni. Buonasera. Ciao Gavino, buonasera. Sono entrato solo per salutarvi. Buonasera Carlo. Avanti Franco per il saluto a Carlo. Ciao Carlo, buonasera, vi ho ascoltato. Avanti, vabbè. Ciao Carlo, ben senti, trovi adesso qualche minuto anche io, però chiudo, che domani si trabacca. Riprendi Carlo. Oh, ciao Roberto e Franco, ho acceso adesso un attimino, ho sentito che c'era un po' di chiacchiera, allora ho detto entro un attimino, giusto per salutarvi, perché in questo periodo ero molto impegnato, avevo un sacco di cose importanti da fare, quindi non stavo entrando. Dai, ci sentiamo nei prossimi giorni, magari quando ho più tempo, volentieri una chiacchierata con tutti, che mi fa sempre piacere. Vi saluto, continuate pure, ciao Roberto, Franco, Gianni, Gavino e tutti quelli che sono in ascolto. Ascolto il vostro finale e poi continuate pure. Ciao, ciao Carlo, dai, ci ha fatto piacere che sia stata a salutarci, dai. Fate sentire più spesso, dai. Avanti Gavino. Sì, ciao Carlo, grazie per i saluti, grazie ancora, quando vuoi siamo qua, siamo qua. Buona serata, buon tutto e per i prossimi giorni. Avanti Roberto, per i saluti a Carlo. Sì, grazie per l'ingresso e per i saluti, sempre un piacere ascoltarti Carlo, quando vuoi, quando capita, ben volentieri, vai Franco. Ciao Carlo, allora vai. Grazie di essere entrato per il saluto, ci sentiamo alle prossime. Vai Roberto. Cappa, oggi è un questo tranquillo, senza burotto, tranquillissimo, non c'è neanche disturbo di propagazione di niente, QRM quasi inesistente, così va bene. Speriamo si ripeta spesso questa situazione, perché molte volte bisogna che si propagazioni spagnoli, americani, è una confusione totale. Riprendi Gavino. Adesso ti metto la porta e parli con muro. Baralam strano, così è. Tutto una baralam strano. Comunque sì. No, già, guarda, a me andare a pescare, diciamo, da terra, queste cose qua non piace, a me andare a pescare da terra non mi piace, io sono più dalla barca e soprattutto vado, scusate che c'è mia moglie che sta passando l'aspirapolvere, meno male che non c'ho gente giù, magari si possono lamentare qualche tana di muro o qualcosa. A me pescare, mi piace pescare soprattutto calamari, io diciamo bollettino non è che sono, non ho mai neanche pescato, non mi piace, non ho pazienza, però il calamaro, a me il calamaro, soprattutto la tecnica di armatura delle lenze, queste cose qua piace molto perché mi baso soprattutto con le teorie che mi hanno insegnato i vecchi, metodi di pesca, posizioni al vento, dai, un po' di roba, c'è un po' di roba. Avanti Roberto. Saluto Antonello, ciao Antonello, salutato Antonello. Antonello, buonasera, non ti ho copiato che stavo parlando, riprendi già. Antonello, ma io non l'ho sentito. Ha parlato sopra a Coso, ecco, l'ho mai sentito. Saluto da tutti comunque, ciao anche a Carlo, a Coso, a Carlo che è andato via. Io sto appena rientrando e mi sto mangiando un panino, poi rientro al baracchino, appena ho finito di mangiarmi il panino, sennò mi rimane incastrato, hai capito? Dai, l'ho messo male di Coso, di... influenza, cosa del genere, una settimana, oggi mi sono uscito e sono entrato poco fa. Datemi tempo di mangiare il panino e rientro subito, a fra poco. Ehi ragazzi, io delle ombrine che sto parlando di quando c'era il passetto con le rocce prima di fare quel monetto che hanno fatto, che c'erano le tane, io lanciavo sotto la roccia, tu portavo la lenza per appena indietro e il giorno era pescami una cosa, tutti i pesci, da mezzo chilo, da un chilo e mezzo, da un chilo, tutti i pesci ho preso. Poi lì li facevano anche i secchi, lì usciva anche un po' di secchi. Ne ho preso 12 io lì, i secchi. Andavo, e siamo andati con Natalino, pure gli ho fatto vedere io, e forse con Franco Califuri, con Claudio. Io ne ho pescato 12 una volta. Positivo, positivo. Già andare. L'importante è portarle a casa, poi dove prendere, dove, diciamo, dove pescarle, bisogna anche a volte tenerselo freddo, perché poi se secondo che porti abbiano in greffa, quindi non bisogna mai dirlo, non bisogna mai dirlo, e soprattutto bisogna lavare dove si prendono secchie e calamari, e se prendi con la barca portarti, allontanarti da dove hai pescato, portarti appena appena di coso, di barechina, e lavare la barca, perché la gente viene a vedere se c'hai nero di calamaro, altrimenti ti porti un nylon, lo metti nella coperta e peschi, e se no fidani e ti dissigni, capisci? A me è capitato, a me è capitato, poi se vabbè, ci sono quelli che ti seguono ma non sono buoni a pescare, si mettono la fianca a te e non peschi né tu né loro, perché fungono il calamaro e non pesca né uno né l'altro, ma calibai. E quindi vabbè. Ah, anche io come te, Gavi, io pazienza poca, canale a pesca, a volte non te ne andavi in qualche secca, cosa del genere, con la barca o col gommone, cioè non mi piace. Io mi divertivo, vabbè, sempre pesca subacquea sino a qualche anno fa, adesso faccio solo il giro con la maschera senza fucile, che è il divertimento più grande, guardate il fondale che ti giri. Il divertimento mio era con la ballerina a prendere i pulpi, me ne andavo nei posti che conoscevo e ho sempre preso con questi stivali, il mio padrino era un vecchio figlio di pescatore e mi ha insegnato con questi stivali e non ti si agganciava mai, tutti carri armato, la ballerina, se tu sei figlio di pescatore probabilmente lo saprai anche tu, non ti si incaglia mai e sei sicuro che il polpo non lo prendi, cioè non ti scappa. Sì, positivo. Io sono cercato un po' di andare a Trevigià, ma Trevigià non avevi fuori, quindi, ma ti parlo di 10-11 anni fa, 12, si prendevi qualche serpentone, riprendi Franco che sei in posteggio. A me a pescare piace un po' la canna e basta, poi pesca a calamari non ne ho mai fatto e penso di non farne mai. Diciamo al mese di novembre andavo sempre a Seppia e qualche volta prendevo, ma da qualche anno in questa parte non c'è più nulla, infatti non sono più andato. Avanti Robbe. Capo, dai, riprendo io per salutare, dai, che per me già tardi, domani mattina si alza presto, dai, saluto a tutti, bel divertimento, continuate, divertitevi, io vado in QRT, sempre un piacere fare belle chiacchierate, soprattutto quando sono così tranquille, rilassanti, e contro lo stress e l'orgoglio della vita moderna, come diceva il Cina. Ciao a tutti, diciamo da Gianni, Gavino, Franco, Antonello, eventuali anche amici qua, SWL, io vado in QRT, ciao di nuovo, a presto. Ciao, ci sentiamo. Buonanotte. Sì, ciao, vabbè, tutto alle prossime, buona nottata, buona cosa per domani, dai, ti prendi fra. Ehi, cazzo, vai, ciao Roberto, buonanotte e buon lavoro per domani, ci sentiamo tutte le prossime. Avanti, già. Cappa, io ho già salutato, e c'era Antonello, saluta Roberto. Ti stavo dicendo, Gavi, di quel periodo che c'era la roccia proprio lì al passetto, era uno spasso, prendevo sempre cose, poi vabbè, come hai detto tu, l'ho detto a degli amici, l'ho portato altra gente, hanno lasciato il nero di Sipia sopra il molo, come hanno buttato la Sipia sotto e mi hanno imbuttito. Comunque con la volta che ne ho preso 12 c'è per merito di un pescatore, perché questo pescatore che era sul peschereccio stavano pulendo le reti e mi ha detto, ma sai cosa fai? Ma che c'è una femmina che si è ripigliata, si la muore dentro una retta e io ce l'avevo una retta. Ho detto, ma questa la fede a Romulo, li attira tutti i masci e così ho fatto, è vero che li ha attirati davvero. Però devi stare attento perché la seppia femmina attira i maschi, ma secondo che il maschio è la gribba, e non ne prendi più. A Plattamone devi andare a Roccia Bianca a fare quel lavoro, prendi il maschio, non, cioè scusa, la femmina viva, e la fai camminare, lo sai le seppie che ti arrivano, tante, a Plattamone diciamo le rocce bianche puoi fare quel lavoro lì. E poi a Patamone le rocce bianche, se vai con una luce la notte, con una luce ci sono i granchi pelosi, ma a secchielli li metti, a secchielli, quelli sono monitori su uomini. Lo so, granchi faraoni. Positivo, positivo, quindi ne metti uno per un suo, basta, dico, perché lo fai sul frigo, va bene, qua, alla grande, quelli sono pieni, sono buoni, sembrano gran seole, vai Franco. Ecco, tanti anni fa ricercavo anche io quelli lì, e usciva veramente buono, vero Fra, quelli sono ottimi, Poi andavo anche a fare fratelli, io di lì a Patamona, quante ne ho fatto, capita, secondo che cosa trovi, prendi anche le fatta gialla di lì, ci sono anche le fatta gialla e ti fai un sugo allucinante. Quando lavoravo con all'Intermare Sarda ad Arbatax, andavo proprio fra Ilis di lì nelle roccette, in quelle roccette rosse, a fare le patelle, sono saltato un po' dall'altro, la mia compagna di lì a, diciamo, con me, avevo la casa da solo, una di figlio e femmo, che ci battelli, io in giro metto l'olio a fare appena di soffritto, di quello la gioca marina appena fatta, in realtà la mia amata quasi ad abitudine della gas, succede una giubilata. Come mai? Perché che non sono incendiari? Cosa? Invece era troppo caldo l'olio in confronto alla temperatura a pastella. Capita già, ma dove c'è della gaffa decida? Forse il contrasto con l'acqua che ci avevano e l'olio caldo, quello lì è, perché l'acqua, quando tu metti acqua nell'olio caldo vedi l'effetto che fa, no? Quando per dire dopo che friggi e metti la padella sotto al rubinetto, che molle di brutto. Sì, capita, succede una rubigliata, prima rubigliavo con la capicciuglia, poi ho fatto un fiammone, tipo buono, tipo quando butto la benzina nel fuoco, una cosa del genere, e vabbè, comunque, è andata, anche quella è stata un'esperienza, no, comunque a Patamona sì, ci sono le patta gialla, sono quelle un pochino più gusciate, però ci sono, se fai una selezione di lì, diciamo, dalla torretta fino a la spiaggetta, lì dove sono quelle roccette lì, qualche cosa la fai, un chiletto lo fai di patelle, sono vettate, però chi ce lo fa passare il gusto della fatta con le patelle, non sta facendo niente di male, che piedi fa? Capo, bello quei tempi erano belli, era più ragazzo, però quello che non ho capito mai, come fa un granchio del genere a entrare nel buco della roccia e come fa a uscirne? Quella è madre natura. Io ho visto gente che andava di giorno anche con la testa della sardina, la prendeva una lenza e usciva al granchio, lo prendevano addirittura. Io quando ero piccolo mi ricordo che quando ci portava mia madre, mio padre a mare, mio padre lo prendeva da dietro il granchio, lo prendeva con le mani. Io non vedo come era riuscito, addirittura dimmo a chi sti bugni e si ti mette fece un granchio di un genere, non ti biglia nemmeno la mano in congola, ti lo bigliava con le mani, mi tringia, lo prendeva con le mani, lo stringeva da dietro, buono l'orecchiello. Esperienza, capito? Io una volta adesso a qualche cosa a Marco, mio figlio, avrò avuto 4 anni, sono tornato da pescare e ho buttato tutto il pesce nell'avvello e c'era anche uno di quei granchi faraoni con un'anghiera rossa, e gli ho detto: Marco lì, non toccare il granchio perché ti tissica. No, papà, non lo tocco, ma esco fuori un attimino, vado in bagno, sento, corro e trovo il granchio con l'anghiera attaccata al dito di Marco, cazzo, giù di italiano di duro, gli ha fatto un segno quasi a tagliarlo, ho dovuto staccare l'anghiera, mi sono preso una beccata anche io, però vabbè, ho staccato l'anghiera per non farmi male al dito. non molla, no, non molla già non è molla, credo, è come la tartaruga, capito? Quando non si gheggia per il bucca dente con denti, è maledetto, magari faccio tu piccolo grande, io ho visto grandi, io ho visto grandi di quei granchi, e se ti bifigheggiano di chi si va via, aveva una pizza a becco, pariani, non c'era a scherzare, forzarella hanno. Sapete, no, che questi granchi troncano in arenza, mia voce. Non ce la giocare. Sicuro se prende il dito di un bambino glielo taglia, di un bambino piccolo glielo taglia. Vai Franco. Forti. Poi, anche se gli tagli il braccio della ghiera, se lui si dice sempre, rimane stretto, rimane. E a brillo che viene buco. Infatti, è vero. Se gli tagli la chela che il finta rimane secco, in chi viene, diciamo, non è che la molla, è vero, rimane stretta. E ci aveva tutto rubio, con gli azzecchini, e poi lo stava bene, ma anche li mangia mai. Tu puoi immaginare, bambino del 14, amuccio la gadria e ha stato sopra. E sento tutti azzecchini da lontano. No, era grosso quello di Gavì, l'avevo preso anche io così, l'avevo messo una sandina con la lenza, l'avevo fatto attaccare, poi l'ho messo il corpo sotto la giubiliata. E io riprendo lo stesso, però riblocco le chene, capito? Riblocco le chene di modo che lui non possa pisticcare. Se le blocco da dietro, se ce la fai, se non ce la fai è meglio che do un occhio. No, io non ce la faccio a pescarli così, Io a pescarli così non ce la faccio. Devo avere la terza della sardina, però li prendo con, diciamo, ho fatto una specie di pinta a cucchiaio. Mi ho fatto bugia, avevo una specie di pinta a cucchiaio e riuscivo a prenderli con quella. Adesso sarà una decina d'anni che non ci vado più. Però era bello andarci, andavi di notte, ma Platamona di lì, ma in quelle planete che ci sono, con la pila, ne prendevi, guarda, c'è stato anche da prendere un secchiello, anche di quei secchielli blu per lavare per terra, li coprivi con lo straccio e li coprivi a carta gommata, uno di quei secchielli li facevi, che poi sono la politica di secchi, saranno i 20-25 granchi, non è che ne bilata assai, però ne davi due a uno, due all'altro, due ti facevi il suo, due le davi diciamo, ti passavi, diciamo, dalle 21 alle 2 del mattino, ne facevi per fare piano piano, però era un bel passatempo. Poi di lì a Platamona c'è stato un periodo che riuscivano anche quei bocconi. I bocconi, quelli, ma non, poi non avevo più trovato quelli di tuvarella, quelli belli. Capita, facevano quante era limone, chi si buccone, io non li ho più visto, Anche io li prendevo quando facevo pescare sul mare, ma ne prendevo 5 o 6, così non di più, quelli che sono fare il coso viola, già lo so. Esatto, no, io già ne ho fatto di quei bocconi, perché mi appentavo con la maschera, io ho mai fatto pesca subacquea, io ho giusto una maschera, una cosa, andavo di lì, magari mi facevo qualche riccio per mangiarlo di lì col pane, però mai, io ho sempre avuto paura dell'acqua, cioè del mare, io ho sempre avuto un po' di, io ho fatto sempre del lì. Mai avuto grande confidenza, infatti sott'acqua non è che pescavo, io quando scendo a un metro è anche troppo, voglio subito risalire, però tanto il boccone, dai, di trovare i bocconi, già me lo facevo per la fare, diciamo, di cioca marina, paraministra, e poi i bocconi bolliti con lo secchino erano una bontà, riprendi Franco. Allora sai Gavì, come facevo io i granchi? Io facevo di gioco, avevo una specie di stiero e li cercavo nelle rocce, ma prima di sicchia e da voi, ma senza che i piedi li legavamo. E così, la cabicina di cui c'è in terra. Ma che avessi invece tanto è meglio andare a Corso, a Dattili, qui a Bucconi che a Granchi. Franco andava con la mazza sullo scalpello, mi dice dove stai andando, dove stai andando, a Granchi. E allora, ti si devono acciappare, devi dare maniera acciappare dei minuti, se ti vuole fare un suo nuovo, mi dà neanche se maduri, acciappare così acciappare, solo mia mano non si può più fare, che si sta gatta e da risale. Alla Lido, via, chissà che hai deciso, questa settimana alla Lido è uscito il coso, è passato la batteria a 40 volt, chi so io ti fa carro, la voglia granchi, i figli. Capo, vabbè, non è il caso di prendere, ma te l'ho mattato il caipeggio, solo che adesso ti arrestano. Sì, adesso, ma tu prima ti arrestavano, chiamavi bene, se prima mi sacchi, è quello, prima, cosa, prima ti accettare anche una cosa che poteva sorvolare, il vuole servire, di dire un granchio, capita, eravate per il caipeggio, non mi l'auto sapeva. C'era una barca quando pescavo io di notte che entrava al molo sparata, una barca celeste, non volevo segnalare alla capitaneria, ogni volta c'entrava a rando, un ragazzino era. Ma quelli bisogna lasciarli fare, perché poi già intanto sono tutti amici, quelli non bisogna lasciare, la gente, quella gente che non chiede niente, quella gente che non chiede niente non bisogna chiedere niente, e bisogna lasciarli fare, perché non fanno niente di male, però non bisogna chiedere niente, bisogna lasciarli fare quello che vogliono, però stanno lavorando. Sì, ma lavoro io, cioè, da che mondo è mondo, quando tu entri nel molo rallenti, non vai sparato dentro il molo, sai che ti resti ravvisciato visto perché non ti dava il tempo di togliere, cazzo, che non fava tutta la terra. Sì, io lo so già, però... Bisogna prendere il piano, ma dentro il porto non si può neanche pescare. Lo so, non si può pescare, ma però lo fanno tutti, l'hanno sempre fatto tutti. Ci fanno anche gente di Porto Torres, quindi l'hanno sempre tutti fatto. Però quello lì è un pericolo, uno che corre così dentro il molo non va bene. E già lo becca alla fine della Guardia Costiera qualche giorno. No, lo sai cos'è già, e non è che lo beccano, lo sanno chi è, però dai, bisogna lasciarlo tranquillo. Ma adesso è tutto chiuso, quindi? Ci può più pescare, io non ci sto più andando lì a Porto Torres, io vado a Plattamona, vado al presidio militare, lì metto le canne, quando devo andare. Solo che anche lì stanno mettendo parametri, un casino. Allora, lì al porto, dove c'è la capitaneria, lì è tutto chiuso adesso. Sì, no, ormai ho trovato a portare di Olbia, non puoi più entrare lì. Cioè, al Massetto non si può più entrare, dove c'è un fontano, si può passare. E poi ci andava anche, tu già lo conosci, a Claudio Ferrari, e adesso è tutto chiuso, non fanno entrare più a nessuno. No, non si può più entrare. Se ti trovo ti metto anche il verbale. Ma che fatto? Vabbè, io al porto, ti ripeto, io la canna non sono mai andato, cioè non sono un paio di volte, ma non mi piace. Però ho visto molta gente che va ai cubi, dietro diciamo alla Rinarida, lì a fare calamari, lì se ne prendono. Calamari, non so dove si prendono. Già lo sai sicuramente, la chiesa di mare è vicino, lì sotto ci sono i lampioni che illuminano il mare, lì si pigliano i... adesso non lo so se è così ancora, ma prima ne prendevano un bel... Sì, già si prendono sempre Gianni, però anche di lì al porto che sono i cubi. Tu ricordati una cosa, dove vedi barche strusciando a terra, di lì si prendono i calamari. Non sempre dove c'è la luce. Vabbè, ma la luce la tira, io mi ricordo che quando prendevamo a calamari, io illuminavo la tutta l'ala, lo illuminavo, lanciavo. se fosse riuscito. Ho capito. Sì, Franco. Ma tu quale stai dicendo? Quella che c'è dove c'è il ponte? No, l'Arnaruda è, diciamo, come esci dal porto e trovi quella piazza, la piazzale dell'Arenaredda, dove ci sono i cubi che portano all'imboccatura del porto. Capito. Pensavo stavo dicendo l'altra, vai, all'uscita del porto della Tirrenia. No, quella è Marinella. No, dall'altra parte andando verso Balai, lì li prendi e diciamo ti porta verso l'imboccatura del porto, proprio dalla parte della Madonnina. Ma lì ci sono sempre i gozzetti, quelli, diciamo, quei gozzetti piccolini che prendono e vanno a calamari, a struscio, e li prendono, prendi calamari grandi perché vanno a depositare, purtroppo anche quello è sbagliato, però sono i calamari che vanno a depositare le uova a terra. Sono grandi, sono calamari grandi, da chilo e due, però sono uvadi, sono calamari uvadi con le uova, se prendi quello, diciamo che stai terminando la razza, stai terminando, diciamo non si riproducono. Non sarà quello che prendi tu, però ci sono 100 persone, 50 persone che prendono due calamari. Quelle 50 persone hanno terminato 100 calamari che devono depositare 20.000 uova. Mi segui? Sì. No, io a calamari non ci andrò mai, perché intanto a me non è un pesce che mi piace assai. Ma a me mi piace neppure un bel. Ma non tanto a ruccio, no, ne manco impanati. A me mi piace il calamare ripieno e vado in forno, buona ridiso. Sì, per quelli esco di testa, lo prendi già. A me mi piace di frisci, ma a calamari mi piace la rosa in tutte le maniere. Ma un bel paro pure a me. Più i calamari del pesce, il pesce proprio non mi incascia, ma i calamari, i pulpi, i crostacei, i frutti di mare ci vado male. Sì, sono buoni. Sono molto buoni. Però sì, fritto sì, ma diventa un po' grigiabito, però caspita, ripieni, buoni. Ecco la pasta, mi fate la pasta con i calamari, gli spaghetti, le babette, non vuoi 13, buona ridiso. Dunque il subetto semi concentrato. Buoni. E poi di Franco. A chi piacciono sì, purtroppo, non è che non mi piacciono del tutto, le mangio lo stesso, le ho mangiate infatti di tutte le maniere, però una volta mi sembra che erano sposalizio, le ho mangiate arrosto, le ho mangiate, erano buoni, però non ci vado male, va. No, vabbè, magari preferisci più magari i polpi o le seppie fatte con i piselli, polpi a diavola, queste cose qua. Capo, e poi te lo mangio di tutti i maneri, e visto se vi faccio più in maggio più ne mangio. Chiedila a me, poi pagliata, io i polpi agliata, mi faccio anche due focaccine, non mangio altro, poi pagliata, due focaccine, vedi bene, e stai andando, vai Gianni. Poco mi siete zetti, capisci? A me piacciono molto le salate, i pulpi. A molti dei pulpi, quelli di scoglio e salata. Una volta l'ha giubilato uno di 4 kg al muro. Quando l'ho preso questo amico mi ha detto, questo è un paracadute. Cazzo, lo sai come l'ho preso? Ho messo la canna con una. Praticamente ho messo una sardina, gli ho messo due ali, l'ho messo a pelo di panchina, e più due cani l'ho lasciato lontano. A giubilato l'ho visto il cucchiaio camminando piano piano, camminando fino a dove un pesce giubilato, la canna in mano, gli ho fatto una stracciata, ho fatto il tempo a mettere il coppo sotto perché si stava staccando, si è staccato, è entrato dentro il coppo, se ne stava salendo l'acqua, ma come arriva, gli dico, si coppi mani, allora. E questo amico mi ha detto, cazzo, tutti e due i vini lì sono paracadute, 3,950 kg pesato, però ho fatto male a mettere il frigo tutto intero, avevo fatto l'ingestione di boi per subire. bene. Allora io il polpo l'ho unito al porto, il polpo l'ho unito al porto, l'ha preso il signor Bernardini col gozzo, col carro armato. Ma sono andato esatto, 12 kg. Era assurdo, un polpo 12 kg, il signor Bernardini, mio uomo anziano, l'ha preso quasi l'imboccatura del porto, 12 kg, quindi Maria che aveva un cucciato con un gusto, a tu sono Maria che aveva un cucciato con un gusto con la lenta. Quindi dopo un po' veniva, sembrava che era una cima di quella molla a fondo, a tutti i punti era rimasto un boico. Abbiamo visto, è uscito anche il giornale, 12 kg, è uscito solo una pasta bianca, c'era uno in banchina, mi ha gabbo, ma era un gabbo quanto lo giacchiello, quanto la lama della vittura. Era a mano rumio, era a mano rumio, figura di chi su... grande, guarda io se non l'ho uscito anche in giornale, guarda se lo trovo te lo mando l'articolo, è uscito anche in giornale, mi signor Bernardini, capita, bravo, ma ti l'ho fatta l'insalata, mi sono fatto, secondo me non era neanche buono comunque, perché quando è così grande, ma era in Gerri quanto lo grattugava del Grigliano, perché era basso e tosto, capito, non era di quei colpi lunghi, vicini, i fessi, era un po' più botto, era, pareva un pitbull, pareva un cane. Quello che ho pescato io, l'ho preso in mano, mi arrivava dalla spalla sino al ginocchio. Figurati, stavi con me, ho detto fotografa, me la aiuto, fotografa, no, c'ho paura, cazzo, lontanati. Io mi avevo in mano, la giubbia di barugato. No, capita, non so quando è pericoloso il polpo, quando lo prendi sott'acqua, ti facciamo pesca subacquea, proprio quando fai pesca subacquea, a me si dice, vabbè, il polpo se lo sai, se quando tu vai sott'acqua, un bel polpo lo sai cosa ha tirato, dagli occhi, quando ci sono i cadaveri, quando a mare trovano i cadaveri, che gli mancano gli occhi, si la mangiati lo boi come, no, cosa pensi? Il polpo sott'acqua ha tirato quando trova qualcosa e subito si mangia gli occhi. C'era uno dove abitavo prima mia madre, c'era un signore che andava a caccia subacquea, bravo, un signore che faceva pesca subacquea, guarda, è preparato, un fisico, l'atleta, dice un giorno ha preso questo polpo, sarà stato un polpo da chilo. Quando l'ha preso col ferro è andato a metterlo nella sacca e ha chiuso male la sacca e questa sacca se la legava alla cintura, lui ha detto intanto qua ce n'è, invece di metterla al pallone l'ha messa alla cintura, lui ha detto me la tengo alla cintura così se li trovo faccio prima. Questo polpo riesce a aprire, in pratica lui ha chiuso la sacca male, non che il polpo ha aperto la sacca, riesce a chiuso la sacca male e questo polpo gli camminava nella schiena, bello sai tu, i tentacoli, questo polpo gli ha preso, gli è entrato i tentacoli dentro la maschera, ha aperto la guarnizione e è andato, si è accorto perché gli è entrata l'acqua e ha sentito la punta del tentacolo andandogli nell'occhio. Io pure li ho preso, questo pesca subacquea, ho preso dove dirsi, anche seppia ho preso, la seppia di solito la trovi dove c'è sabbia e roccia, praticamente si fa la tana tra la roccia e la sabbia, la scava verso giù, e quando vedi lo scavo così io le conoscevo già le tane delle seppie, controllavo che magari la vedevo lì su di tu la sparavo. Sì. Stai attenti sott'acqua, lo prendi fra. Oh bambino, come funziona la radio? Tutto un saturo sembra, almeno qua vicino sei saturo. Sono un saturo, suono, questo non si può neanche avere una potenza. Ti porti anche alternata dietro. Così? Io vedete? No, così è bella. Ok, ho abbassato allora molto niente. Adesso l'ho messo a 5. Così va bene? È un pochino alto, un pochino compressa, però era meglio 3 secondi fa. È a 3, così, dai. È un 48, va bene, dai, torno all'alto. È positivo, va bene però adesso. Sta protetto questa che non l'accendo, 48. Escono bene quelle radio. crescono bene, quindi domani provo ad accendere Super Targhe. L'ho portato a 7 watt, però Riccardino non ha ancora risposto per il summer, no? Beh, chiappa, dai. Va bene, va bene, ripeti già. Anche se per il summer... No, ho provato a contattarlo a vedere se l'aveva, cioè quanto lo voleva, che modelli, cioè i modelli già si vede. No, per far girare questo superstar, capito? Lo voglio mettere qua magari da base, però con un thunder, ma non mi ha ancora risposto. Però, Telefono. Un numero. Aspetta, non lo so se ce l'ho io, devo controllare. Ho mandato un messaggio su Market Training, ma non ha neanche letto il messaggio. E magari non c'è andato, capito? E Riccardino ha diversi compiti anche lì, c'hanno i cavalli, c'hanno... poi fa anche parapendio, insomma, è molto impegnato con la ragazza. Ah, ho capito, vabbè, meglio, è importante che sia impegnato. Le altre cose già vengono dopo. Quando sei ragazzo c'è lo studio e la passione. E infatti. Ma magari io non ce l'ho il numero. Non so chi potrebbe averlo, se non so se il padre ce l'ha. Non lo so. Devo controllare, io prima ce l'avevo il numero suo, il Riccardino, però poi non lo so, ho cambiato il telefono e ho perso tutto. Forse ce l'ha Roberto. Roberto sì, Roberto senza dubbio ce l'ha. Magari domani provo a mandare un messaggio a Roberto a vedere se ha il numero. No, perché il termine Super Fargo, il tanner è bello. Se ne trovo ti mando le fotografie del corpo e dell'orata che ho preso. Ehi, sì, sì. Manda. Secondo te, Fra, il superstar del 2009 con il Thunder P3 è buono? Ah, penso di sì, perché io il superstar non l'ho mai avuto, non l'ho, però penso che sia di certa data ed è buono. Il superstar ha una radio bellissima, va bene con tutti gli apparecchi. Sì. Adesso vediamo se riesco a contattarlo. Fra, cosa... L'80 cosa? Sì, di nuovo quello. Pizza, io sono facendo lo smith, adesso te lo pongo un filtro. Come? Aspetta che abbasso un po'. No, faccio anche tu, vai, no, fai quello che devi fare, di me non ti preoccupare, io ho messo il filtro, adesso l'ho attenuato, non ti preoccupare, fai come meglio credi, non ci sono problemi per me. Sono rimasto così sbalordito perché ho detto capita, non vedo tutto io. Ma va tranquillo, fai pompa. No, siccome io ce l'ho al massimo, lo uso sui 20-30 questo, però deve essere che ce l'avevo da qualche altra parte parlando e avevo aumentato un po' la potenza, quando scalda questo ce ne va su. Sì, no, ma fai tranquillo quello che devi fare, non fare, io ti ho attenuato e siamo tutto, ma adesso sono, guarda, attenuato mi sta arrivando 9,20, quindi pompa. Cappa, no, scala questo lo uso delle volte a parlare in SSB e da qualche altra parte. E tiro, lo faccio arrivare fino a 100. Sì, fa bene. No, io mi sono accorto che ho detto capita, però ho detto io. Questo è il mio preferito per fare DX. Ebbè. Guarda, io adesso sto uscendo con... Allora sono 30, 40 modulati. Adesso lo portiamo. Eccolo qua. 20, 30 modulati. E io sono 25. 25, ma neanche. ancora, riesce a vedere il video, appuntiamo appena appena, giusto per dargli un po' di non dargli burro, ora, mi trovi? Allora, vediamo un po' se riusciamo a dargli un po' di burro, perché io guardo anche l'alimentazione, mi capita, non solo il latte. Mi trovi? Ora, ora, eccolo qua. Eccolo qua, adesso sta dando 30 watt, 30, 33 watt. Sì. Uno mi ha detto, questo tipo era un radiatore, e dei naivi, se che ne va a dire che c'era la 27. E uno ha detto, dice, si sente che stai usando qualcosa di rosso, ha giurato, no, sto usando un baracchino così, no, quello è lo sacco delle MT60. Ebbene, ma lo sa, beh, caspita, voi il governatore non sapete una cosa del genere. sono è una modulazione inconfondibile, mi segue. Sono anche a me me lo dicono, guarda che tu stai usando questa cosa, purtroppo io un po' camuffo perché con questo microfono è un po' non riesce a capire cosa stai usando, vabbè, io non ne ho altri a collegarli al capo, a cui non glieli collego perché mi va bene questo il microfono, con questo va la grande. Sì, però ti voglio dire, con questo microfono che sto usando io, non è una cosa che dici tu stai usando questo apparecchio qua, perché ha una modulazione che non rispecchia neanche le MC60, è una modulazione che a quanto mi sono ascoltato è molto chiara, mi segui? Sì. E lì stasera ho agganciato, stamattina ho messo il coso là, dove ho fatto la prova poco fa, ho messo il precedente linco, l'ho messo, e va bene anche quello, anzi quello c'ho i watt regolabili. Adesso stasera ho messo questo qua a vedere, avevo tanto che non lo accendevo, però non è che mi piace assai, come 48 qua. Sì, già è buono. Già è buono, fra. Tutto è buono, basta prendere, modificare, fare, zicà, migliorare, e intanto guarda, usare sempre la solita radio è una malinconia, non c'è niente di. Dice sì, è sempre quello, invece a volte devi anche farti riprendere, ma sto uscendo male, e credo che sto usando questa. No, io adesso mi aggiusto l'altra mi piace blu, è gala che se mi piace più, e me la aggiusto subito quella, vediamo cosa c'ha. Ma scherzi, quella non è radio da perdere, infra, guarda, non fare a perdere quella radio perché è bella, quella lì è sempre stato il mio sogno, il Saturneco è sempre stato il mio sogno, e mi biasi perché capita radiare i due chissà. Sì, lei poi già l'ha intesa, come dici. Stamattina tutto un colpo ha cominciato a abbassarsi, non stamattina, mi sembra che mi ha fatto ieri notte, però non ce l'ho fatto, non faccio bisogno, da dubbio, non l'ho giù da dubbio. Stamattina me l'ha rifatta, ci va a fare nocca. Ieri notte eravamo in radio, eppure non l'ha fatta questa cosa. No, me la stava facendo, me l'ha fatto una volta quando prima di chiudere. Boh, non me ne sono accorto io, se no te l'avrei detto. Riprendi Gianni che vado a prendermi la pastiglia. Sì, stava cercando le. Adesso vado a prendermi anche una io pastiglia. Gabino. Sì, già, aspetta che sto facendo mi passa di notturne. Ah, poi guardo le foto. Io sono rientrato. Ti stavo cercando le foto. Io una dopo invece una torpidine che ho preso, lui chiedeva a Gabino se una torpidine, ha preso di sì. E dove cos'è la torpidine? È tipo la rasa ma dalla scossa a 380. Quella che c'ha la coda lunga. Oh, non ce l'ha lunga. Adesso mi sto mandando a Gabino quella del polpo che ho preso. non si vede tanto bene perché l'ho preso dalla, da una fotografia. Lui è andato a prendersi la pastiglia. E io sono sceso lo stesso, però ho fatto la pastiglia e mi ho preso una birra. Giorno già fa bene. Certo. E Antonello che fine ha fatto? Antonello, a meno che non riuscite a inventare l'ampulla. Oh boh. Cioè, ma c'è grumito. E l'ha influenzato, ha detto che l'ha influenzato. Davvero? Non ho sentito, non so, non ho avuto modo neanche di salutarlo poco fa. Infatti lo senti un po' strano di voce, boh. Vediamo un po' adesso se entra. Adesso si mangiava questo panino, ma che si mangiò tanto era male. Ci sono panini che ci stai 2 ore a mangiarli, che non mi hanno. Dipende come lo mangi. Che gaffera? E che panini sono? Io non mangio per me due panini 2 ore, io me lo strappo subito. Mai sei andato in quel negozio che c'è a Porto Torres, di fronte al Delfino? Ma quale? Quello di Cacciapesca? No, no, ma è un negozio elementare. Qui fanno dei panini micidiali. No, non ho mai avuto modo di andare lì. Non mi risulta ma che ci sia. Negozio di alimentare. Qui c'è il nautico, poi c'è il tabacchino che vende anche roba da pesca, e il bar, però questo negozio non ce l'ho presente, lo sai. Prima delle cose da pesca, prima, è un viottolo che entra appena, entri, hai visto dove sono le scuole, il nautico quello, no? A fianco. No, non c'è proprio una coesistenza, fra sinceramente. 3,50 euro, ma panino, la giornata che riesce a mangiare mio. E con che cosa lo fa? Come vuoi tu, quello che gli dici di metterci, ti ci mette dentro. Una bomba, via, ma buono, io non l'ho mai visto, sono tanti anni che io scendevo a Porto Torres e i negozi li conoscevo, pensavo di conoscerli tutti, ma no. Quello non lo conoscevo, me l'ha fatto conoscere mio cognato. Forse perché è nascosto, non è in vista. Esatto. Infatti io ho fatto mente locale, mica poi tutto la conosco palmo per palmo mio. Immaginati che facevo anche le consegne, quindi ti puoi immaginare se la conoscevo. Tu hai fatto le consegne, io ho fatto le turbino lì, anche. Ah, Porto Torres. Certo, io ho fatto d'estate, tutti gli anni di agosto, a volte non si andava di farsi le ferie in agosto, allora per lavorare, perché chiudeva dove eravamo noi, chiudevano, e allora andavamo a fare gli spazzini. Ma era una cosa che facevi tu o lo facevano tutti i tuoi colleghi? Chi voleva andare? Chi non voleva perdere le ferie, diciamo, non voleva perdere le ferie e farle a settembre, andavano tutti. La maggior parte eravamo quasi tutti che andavamo, capito? A fare quel lavoro lì, nel mezzo d'agosto. Ma aveva un collegamento con la vostra ditta oppure no? Era la stessa azienda. Ah, ecco. Adesso ci siamo. Non capivo cosa c'entrava a fare le turbine con quello che facevate voi. No, perché eravamo la stessa azienda. Ah, ecco. E come lo facevi con i cacchionicchi? Io ero un camion, andavo con l'autista, io ero l'autista camminava e io ci buttavo la roba dentro. Ah, ecco, ho capito, vabbè. E quindi andavo anche con la persona che conosco io. Mi sembra che ci è andato una volta, mi sembra, non mi ricordo bene, però poi non c'è andato più perché non ce la facevo. Come fai? Lì devi camminare. sì. Lì bisogna camminare, infatti me l'aveva detto un giorno, dice, perché dice, a lui l'hanno messo, però se c'è andato non lo so, se c'è andato. Poi è andato in ufficio e gli ha detto che lui non ce la faceva, andava in ferie. Ho capito. Vabbè, se non ce la fa, non ce la fa. Io me ne sono andato per quello da lavoro, che non ce la facevo più, c'avevo luce, era sotto al piede che sembrava un vulcano. Sono entrato. No, ma gliel'avevo detto anche io, gliel'ho detto, guarda che non è lavoro per te, che si cammina lì, si cammina parecchio. Infatti poi alla fine anche lui me l'ha detto, dice no, io non ce la posso fare a fare tutti quei chilometri appresso a un camion. E in effetti lui non è venuto più. Però non sono sicuro se ha lavorato un giorno, se pure ci ha provato e se n'è andato, non lo so. Avanti, grazie. Positivo. Continuate tranquilli. Gabi, ti ho mandato delle foto, anche se non sono tanto chiare perché le ho prese dalla fotografia. E dimmi una cosa, se quella che ti ho mandato è una torpide che ho preso. Aspetta, c'ho il telefono in cucina. Perché io lo levo, non è una radio. Secondo me è una torpide, io la torpide non l'ho mai vista. E infatti gli ho fissato il coltello in testa. Beh, tu ti credi che era viva ancora, che aveva già legato a casa con lo busto di infilato in capo? Ma per qua è una cosa incredibile. Allora, facciamo vedere. Allora, messaggio. Comugio è già, sì, è la torpedine. Quella lì, come l'ho vista, mi è sembrato una torpedine, è entrato il coltello da lì in testa. Beh, ci credi che quando l'ho portato a casa l'ho messa nell'alvelo per lavare, per cosa era viva ancora? Il mio padre è quella che ha bucato lo trivale sul peschereccio. Ma lo sai che dalla scorsa 380 mi pare che da lì. Sì. Mio padre gli ha bucato lo trivale questa. Quando era ragazzo. Mi ha bucato lo trivale e gli è rimasta la spina incastrata su quel piede. L'avevo ricoverato. Sì, è il rugio, quello è la pattinacca, diciamo la pattinacca piccola. Ehi, comunque, hai visto i bei pizzi? Quello che lì sono pochi, se te ne vado a fotografare e vai giù là con un chilo di pesce. Sì, lì sono pezzi, vedi già. Quelli sono pezzi belli, caspita. Non so male. Bel pesce questo qua, sì. Sì, bravo. Quando uno va a pescare a prendere roba così ha anche soddisfazione. Capitavo, va giù una iatta in brazzi. E mi dai depisa. Tu dici 41 all'anno. Ma in casa ce l'ho messa? Sì, sono i gatti che c'ho io, che ogni tanto ce li coccoliamo, questo qua è un maschio bello peloso, bello. È perfetto, è il gatto della bambina, i gatti della bambina, sì, non mi devo siccare però monero, ma la zappa umana della mano mia. Io ne avevo uno 19 anni, me l'aveva regalato la sorella di Rando, quelli che praticamente hanno l'officina Giustano Motto e via Cottoni. Praticamente sono andato a casa sua, ho fatto una consegna di una spesa e ho visto tutta la cucciolata, c'erano i gatti persiani. Sì, che belli! E beh, uno non me lo dà, no, questi li vendiamo. Il marito mi ha detto, ci vado già a Dio, te lo regalo io. Ma a Virgi, non regalo. Ci vuole già a Dio, ho detto, voglio quello. Ma me ne ero dimenticato, Gabi. Un giorno è venuta la buona anima, poverina, adesso è morta. È venuta, mi già è pronto quella cosa là. Com'è quella cosa là? Non capivo cosa era. Il gatto è pronto, c'ho già 2 mesi e io vedo abitativo. Sono andato a casa sua, ma l'ho preso un baccuccolo di cottone con questa coda grossa grossa, le zampe grosse, che bello. Sì, sì, infatti, poi io ho questo qua, è bellissimo, ti mostro la fotografia, è un bel bello, è peloso, peloso. Titti, si chiamava Titti, bello, mio gatto era bellissimo, tutti me lo vantavano, grosso, bello, proprio bello, e ne ho morto in mano, 19 anni aveva. Questo qua sembra Silvestro, questo sembra Silvestro, bello, bello, bello, vabbè, Coccolone è bravo, Coccolone, vabbè, è bravo Coccolone, lui, è vero, vero, Peter, vero, Monello. Oh già, sì, ma Rallo non è quello di Porto Torres?